abbiamo lasciato Erigoni che traffica con il suo setup nell'angolo al sole, perché se lo merita, si merita il cuore.